Ma che ce frega, ma che ce importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua. Scusate, benvenuti a Radio Alma, la seconda puntata di 100 città, ma sono già entrata nel clima della puntata perché oggi parliamo di bucatini alla matriciana, di coda alla vaccinara, trippa, carbonara, er Colosseo, er Campo di Fiori, er Ponte Emilio, e sicuramente avete capito che sto parlando ovviamente di Roma. Roma, questa capitale conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo, conta 3 milioni di abitanti ed è la città più popolosa dopo Londra, Berlino e Madrid. È stata inserita tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, ovviamente perché è piena di meraviglie, è piena di monumenti ed è una delle mete più frequentate dal turismo a livello mondiale. Pensate, nel 2007 ha registrato 27 milioni di presenze e chissà poi alla fine del 2008 che numeri avremo alla fine di quest'anno. Allora, l'origine del nome Roma si dice che abbia più origini. C'è una diatriba qua tra latini, etruschi e greci. Si dice che derivi dal latino ruo, che significa scorrere, perché si sa Roma sorge sul Tevere, oppure dall'etrusco ruma, che significa seno, e potrebbe quindi riferirsi al mito di Romolo e Remo, perché si sa Romolo e Remo allattati dalla lupa, quindi riferimento all'allattamento di Romolo e Remo. Oppure dal greco Rome, che significa forza. Tutte queste tre interpretazioni sono plausibili. Voi pensate a quale potrebbe essere quella più vera, e magari se c'è un esperto in ascolto che vuol dirci la sua, magari ha origini etrusche, origini latine, e vuole dirci no, Roma deriva dall'etrusco, no, Roma deriva dal latino, no, Roma deriva dal greco, chiamate qua Radio Alma. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone. Giulio, vai! Benvenuti, bentornati a Radio Alma, questo è il programma 100 città. Abbiamo sentito Lando Fiorini, che è un trasteverino d'Oca da Roma. Stavamo parlando appunto di questa splendida città, questa enorme città che è talmente grande che è stata suddivisa in rioni e in quartieri. Parlando dei rioni, abbiamo per esempio Trastevere, Testaccio o il più recente Prati, e tutti questi rioni prendono il nome da eventi storici. Per esempio il Testaccio prende il nome da Monte dei Cocci, che è un monte alto 35 metri che è formato da detriti, perché dovete sapere che nell'Ottocento il Testaccio era un quartiere operaio, quindi si è formato questo colle e da qui il nome Testaccio. Dopo, scatto di qualità, svolta, e Testaccio è diventato un quartiere frequentatissimo dalla movida notturna, piena di locali, pieni di pub, pieni di ristoranti, e abbiamo qua due ospiti romanacci doc. Abbiamo con noi Bernardo, ciao. Ciao Deda, buonasera. E poi abbiamo Adriano. Ciao Deda. Per le ascoltatrici, ladies, ascoltate, perché sono veramente due latini caglienti, uno moro occhi azzurri, l'altro tutto bello scuro, occhi scuri, capelli scuri. Insomma, diteci un po' dove portereste una bella ragazza a Roma. Ma a Roma, insomma, sono tanti posti dove portare una ragazza. Una cosa romantica. Una cosa romantica, sicuramente una passeggiata per Trastevere o per Campo di Fiori. E magari andare a Ponte Milvio, no? Magari andare a Ponte Milvio, sì, insomma. Perché raccontaci, cos'è questo Ponte Milvio? Ma niente, è un po' il punto di ritrovo per tutti quei ragazzi che abitano nella Roma Nord, diciamo. Quindi la sera, ecco, ci si vede, è un punto di riferimento. E diciamo che Moccia ha scritto un libro ed è diventato ancora più famoso questo ponte, perché tutti gli innamorati mettono il loro lucchetto e scrivono messaggi e queste cose qua. Ma se io mi voglio divertire, no? Perché voi non c'avete la faccia di due, no? Che vanno a Trastevere così, mano per la mano, serata romantica. C'avete la faccia di due che si vogliono divertire. Io voglio andarmi a divertire a Trastevere. Dove vado? Magari alla parolaccia? Dal cencio alla parolaccia, ma è un. Ma sì, insomma, i posti sono tanti a Trastevere, però per divertirsi, diciamo, Trastevere più il posto per mangiare, ecco, più il posto ristorante, per divertirsi si va a Testaccio, al Monte dei Greci. Ah, Testaccio. A via di Monte Testaccio. Ho capito, ma parliamo un attimo di questo locale che è la parolaccia. Mi dicevi, no? Cioè, mi hanno raccontato, ma io non ci credo, che io entro e dicono parolacce. Sì, sì, ti prendono a parolacce dall'inizio alla fine. Diciamo che il locale è basato sul film di Thomas Milliam, adesso non mi ricordo quale, ma nel quale appunto lui fa il cameriere e prende a parolacce lo sventurato milanese che è arrivato, ecco. E quindi il ruolo dei camerieri è anche un po' il ruolo di animatori. E quindi milanesi o gente del nord che è stata all'ascolto, no, non offendetevi se andate alla parolaccia e magari vi fanno delle battutacce un po' pesanti, perché il posto è fatto proprio così. Quindi non è per persone permalose. Tu, Adriano, che ci dici? Vi dico, parlando della parolaccia, che non è necessario andare alla parolaccia per essere presi a parolaccia a Roma, nel senso che è sufficiente andare in alcune osterie tipiche nella periferia romana, come a Pignattara, da Betto e Mary. Addirittura, se vi presentate dopo le due, non vi servono da mangiare perché vi rispondono: che è questo orario de magnà? Quindi, ragazzi, e lì non pagate nulla in aggiunta per il servizio delle parolacce, semplicemente normale, così è servito. Quindi, è nel coperto. E quindi, ragazzi, avete sentito? Avete l'imbarazzo della scelta se volete prendervi delle offese, ma no, qui si sta scherzando. Se volete divertirvi, abbiamo visto Testaccio, che è meglio di Trastevere, ci sono varie possibilità di divertimento. E quindi c'è dal jazz all'house, dal rock e magari anche l'hip hop, il rap. Visto che a me piace quest'ultimo genere, io vorrei chiedere proprio a una persona che rappresenta la grande questo tipo di musica, insomma, avere un riscontro diretto da Squarta dei Corveleno, che è in linea con noi direttamente da Roma. Ciao Squarta! Ciao, come stai? Bene, te? Tutto bene, Vitale? Se venga a Roma, dove si potrebbe andare ad ascoltare magari un po' di musica hip hop, un po' di rap? Ma guarda, in realtà ogni sera c'è una serata diversa. Io ti consiglio di andare su un sito, sì? Che è www.blacktime.it. Ok. E lì trovi tutti gli aggiornamenti per le serate di musica hip hop a Roma. Quindi avete sentito, ascoltatrici, ascoltatori, che vi piace il genere di musica, andate su questo sito e vedrete tutte le serate che ci sono a Roma. Esattamente. Abbiamo qui al telefono appunto Squarta, che fa parte dei Corveleno, che sono un gruppo veramente avanti a Roma, in tutta Italia, hanno uno stile tutto loro, sono sulla scena da vari anni. E dici un po', Squarta, quanto è inciso nella vostra popolarità l'essere nati a Roma e non magari in un paesotto di provincia? Dunque, ha inciso un po', ma non molto, nel senso che noi ci teniamo molto a Roma, comunque al posto dove teniamo, ma cerchiamo di non marcare, di non rimarcare troppo questa romanità nella musica. Cioè, la musica è per tutti e deve essere capibile da tutte le parti, dal nord al sud e in Europa. Quindi siamo di Roma, si sente che siamo di Roma perché comunque siamo cresciuti qui, abbiamo respirato quest'aria, però comunque nella musica cerchiamo di essere meno regionali possibili, diciamo. Allora, avete fatto concerti all'estero? Sì, abbiamo suonato in un sacco di parti, in Germania, in Egitto, in Svizzera, abbiamo girato parecchio. I Corveleno non hanno confini. E dove avete trovato il pubblico più caloroso e dove tornereste volentieri? Per assurdo, in Germania, dove pensavamo, cioè un minuto prima di salire sul palco, io ho detto agli altri: ma che ci andiamo a cantare qui in italiano, non capiscono niente. Invece dopo 3 minuti che stavamo sul palco era una festa, come se stavamo a Roma. E veramente spero di tornare in Germania il prima possibile. Comunque, in generale, voglio dire, quando dovunque sei, quando il pubblico percepisce un'energia, se capisce o non capisce questa energia che arriva con la musica, il pubblico te la ridà moltiplicata per 1000. È vero, perché i Corveleno live sono spettacolari. Comunque sei, basta che dai energia e la gente risponde bene. Sono pienamente d'accordo con te, infatti i Corveleno live sono spettacolari, vi consiglio di andarli a vedere nel sito www.corveleno.com, potete trovare le date. E veramente, anche per le ladies, dico, sono anche veramente dei bei ragazzi, quindi oltre bella musica, energia, ritmo, sound, vi rifate anche gli occhi. E via. Squarta, siete mai stati affascinati dal cosiddetto American Dream, visto che fate questo genere, no? Che comunque la spopola? Beh, chi non lo è, cioè il fatto stesso di poter vivere in maniera comoda facendo musica o comunque facendo il proprio lavoro e soprattutto partendo dal nulla, che poi è il sogno americano, penso che affascina un po' tutti. Poi ti scontri con la realtà dura sia del posto dove vivi, e poi magari crescendo ti accorgi anche l'American Dream, ma anche lì spesso dove è nato lascia un po' il tempo che trova, cioè spesso sono un po' le leggende. Però voglio dire, in America noto che comunque ci sono stato un sacco, ci ho lavorato per un po', conosco un sacco di gente che ci lavora, noto che se insisti sicuramente hai più possibilità rispetto all'Italia. Se insisti e sei l'Italia bravo. Al momento è un pochino ferma sotto tutti i punti di vista, sia economico che di crescita che culturale. Ma come mai? Come mai? Dici, per te, perché secondo te? Colpa di anni e anni di gestione politica completamente sbagliata, direi. E soprattutto siamo un paese dove non c'è molto ricambio generazionale. Cioè, esatto. Sono un po' tutti anziani quelli che governano, sì. Anche se accendi la televisione vedi sempre musicisti, sempre i soliti, sempre di 50 anni fa. Già. E quindi questo non contribuisce a far modo che comunque non solo il rap, ma comunque tutti i generi di musica nuovi fatti da ragazzi, che ce n'è veramente tanta di gente in gamba, questo contribuisce al fatto che poi la musica giovane non trova spazio più di troppo in Italia. Ascolta, ma secondo te, no, le case discografiche adesso stanno proprio dormendo, no, in Italia? Stanno dormendo e stanno per chiudere, non si svegliano. Infatti, ma perché non hanno voglia di rischiare? Perché puntano sempre su queste band che di neanche ventenni che vanno, guarda, a prendere sti pubblici? Questo è un problema che non c'è solo nella discografia, ma comunque nell'industria in generale. Cioè si tende molto a fare guadagno il prima possibile, nella maniera più veloce possibile, e quindi bisogna sempre andare sul sicuro. Non c'è più tempo per costruire qualcosa che poi magari a lungo termine ti dà molto più guadagno e molta più soddisfazione, però siccome non c'è questo tempo, nelle aziende si guarda solo i numeri ogni 3 mesi, quindi cercano sempre di investire sul sicuro. Però questo sicuro dopo un po', se posso usare una parolaccia, rompe le palle. Rompe le palle, sì. Ma perché non puntano magari su delle band femminili? Perché noi non vediamo, che ne so, una Kenny Arcana italiana? Posso dare un paio di numeri di telefono discografici italiani e chiami direttamente loro. Fossi io a dover spendere dei soldi, punterei molto sui gruppi femminili. Anche perché comunque c'è tutta un'altra sensibilità dietro, c'è tutto un altro modo di approcciarsi alla musica. Ed vale la pena di scoprire anche quel punto di vista femminile. Insomma, speriamo che qualcuno di qualche etichetta ci stia ascoltando, perché questo qui è un problema veramente che si sta facendo sentire molto, non solo in Italia, ma un po' dappertutto. Se stanno ascoltando, svegliatevi subito, perché sennò chiudete baracca e burattini. Sveglia, quindi questo è il messaggio, sveglia. Ascolta, voi lavorate con la musica, quindi è una gran figata, perché fate quello che vi piace. Fortunatamente noi ci stiamo riuscendo, un sacco di gente non ci riesce in Italia, perché ti ho detto, i problemi sono tanti. Noi ci riusciamo e finché va avanti così siamo super contenti. Ma senti, Squarta, ma per diventare uno come te, no, in questa band, ci sono delle scuole, uno ce lo deve aver dentro? No, non lo consiglio a nessuno di diventare uno come me. In generale, per fare musica e per occuparsi della parte produttiva, in Italia direi che le scuole non esistono, anzi è un lavoro ancora un po' artigianale, cioè te lo impari da solo, guardando dagli altri. Ecco, forse l'unica cosa che posso consigliare, perché poi di consigli ce ne ho veramente pochi, è di non chiudersi a casa da soli, ma cercare sempre di andare in giro e vedere che cosa fanno gli altri per confrontarsi, perché finché sei a casa tua da solo magari ti senti bravo e invece non lo sei, oppure comunque pensi di aver raggiunto un certo livello e invece uscendo ti accorgi che c'è tutto un altro mondo, e comunque la musica e la cultura in generale è fatta di scambio tra la gente che certo. Se ne occupa, e quindi veramente è importante uscire e andare a vedere che cosa c'è fuori, non solo nel proprio ambito musicale. Sì, quindi ragazzi, uscite, confrontatevi, avete capito? Perché questa è la chiave anche per arrivare a qualcosa, per migliorarsi. Allora, noi ti ringraziamo molto che ti abbiamo rubato del tempo, che sappiamo che lavori anche tu in una radio a Roma. Sì. E quindi niente, ti ringraziamo tantissimo. Grazie, ragazzi. A voi che ci siamo sentiti, speriamo di sentirci il resto, e vi aspettiamo a Roma quando volete venire. E noi vi aspettiamo a Bruxelles. Senza meno. Ok, grande Squarta. Okay. Ciao, Corveleno. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo... Ciao ladies and gentlemen, bentornati a Radio Alma. Allora, stavamo parlando di Roma, questa grande città. Siamo stati al telefono con un cantante di Roma, Romano Doc, dei Corveleno, e ora ritorniamo a noi. Stavamo parlando di Roma, questa interminabile grandissima città, che non è solo suddivisa in rioni, per esempio Testacce, Trastevere, ma anche in quartieri. E abbiamo per esempio il Flaminio, il Tuscolano, il Parioli. Pensate che i quartieri sono ben 35. A proposito di Parioli, per chi non lo sa, questo è uno dei quartieri più altolocati di Roma. Nasce agli inizi del Novecento e poi si forma nel 1950. Inizialmente era abitato dai gerarchi del regime fascista e dai funzionari statali, e attualmente è considerato uno dei quartieri più chic della capitale. La fama di zona altoborghese dei Parioli è diffusa a tal punto che i giovani del quartiere, che sono di buona famiglia, con un tenore di vita medio-alto e tendenze politiche di destra, vengono chiamati Pariolini. I fighetti, ecco, quelli che noi chiamiamo i classici fighetti. E infatti viene usato spesso con connotazione negativa questo termine pariolino, ma una volta designava originariamente solo i ragazzi che risiedevano nella zona, e poi invece adesso è diventato uno stile di vita, quindi quello che si mette la scarpina firmata, no? Quello ovvio. Che si veste in un certo modo. Allora io mi sono voluta informare su questi pariolini e sono andata a leggere un famoso forum in internet che, alla domanda pariolini, per esempio una ragazza dice: i pariolini sono praticamente i fighetti di una zona centrale di Roma, e si dice che sei pariolino quando ti atteggi e vieni vestito tutto di marca. Poi aggiunge: poi ci sono anche i burini, che vengono dalle borgate. Noi non condividiamo, stiamo semplicemente riportando quello che ha scritto questa ragazza. Poi un'altra scrive: non tutti i pariolini sono di destra e non tutti gli abitanti delle borgate sono burini. Ma c'è un'altra persona che conclude, direi che è esaustivo di quello che si pensa di loro, e dice: di sicuro sono quasi tutti pieni di grana, infatti io quando abitavo a Roma abitavo in periferia. Ma chiediamo ai nostri ospiti romani doc, allora prima di tutto, se siete romani de borgata, pariolini, romani doc, allora Bernardo. Ma io sono di Trastevere, quindi proprio romano de Roma. Romano diciamo de così. Roma, sempre a ubriacarsi con gli amici in giro per i pub, praticamente a divertirsi, mai sano dalla mattina fino alla sera. Assolutamente mai, un cantino. Diciamo. E di questi pariolini cosa ci dici, insomma? Ma diciamo che il pariolino adesso a Roma è colui che non abita più ai Parioli, nel senso che originariamente, come hai detto te, era il figlio della famiglia bene, mentre adesso è semplicemente chi si veste come un... chi si veste dei vestiti di marca, il che non vuol dire appunto che provenga dal quartiere. E quindi io sono sempre stata romana de borgata e poi mi trasferisco a Parioli, posso diventare una pariolina? Sì, tutti possono diventarlo, diciamo. È più un atteggiamento, un modo di vivere, un modo di concepire, ecco, uscire e mettersi le scarpe di Prada, ad esempio. Ho capito. Che è piuttosto uno status symbol, diciamo. Esatto, uno status symbol. E tu, Adriano, da dove vieni? Dove ci hai detto che abiti? Beh, io vengo da quella che tu prima hai definito una borgata, cioè vengo dal Prenestino, uh-huh. Esattamente vicino Porta Maggiore. Adesso, un tempo era quello che si definiva borgata, adesso è una zona quasi semicentrale, considerando quanto stanno costruendo lungo la Prenestina. E, riprendendo quello che diceva Bernardo, sì, è vero, non è necessario venire dai Parioli per essere considerato pariolino. Io, per esempio, nella mia esperienza personale, ho frequentato una scuola al centro e la maggior parte dei ragazzi della mia classe, pur provenendo dai più diversi quartieri di Roma, da San Giovanni a Tuscolana, Casilina, alcuni di loro si vestivano da Parioli, non avendo assolutamente origini. Sì, è un fenomeno giovanile, è uno dei classici gruppi in cui si dividono, una tendenza adolescenziale in cui si dividono gli studenti di ogni scuola. Ci sono sempre i parioli, ci sono quelli che a Roma noi chiamiamo i coatti. Questi coatti. Che stai a dire, ma i coatti però sono più simpatici, diciamolo. Cioè, decisamente sì, dai. Più simpatici, decisamente. Il coatto, cioè esci col coatto, ti fai una bella risata, una serata proprio veramente all'insegna del ridere. Poi magari ci vai la parolaccia e via, l'apoteosi proprio del divertimento. Il top del divertimento. Ma voi avete una compagnia, che ne so, più coatta, più pariolina? Ma il trucco sta nel mischiare un po'. Vera, grazie, questa è la cosa vincente, mischiare. Tutte, insomma. Il coatto poi non è nient'altro che quelli che venivano chiamati burini, ecco, insomma, cioè, non è proprio una grande distinzione tra burino e coatto, ecco. Va bene, allora ascoltatori, riflettete su questa cosa, burini, coatti, maragli, insomma, fatevi voi un'idea e ascoltiamo la canzone. Una bella canzone nostalgica. Ciao ciao ciao, sempre su Radio Alma, sempre su Cento Città e sempre con i nostri fantastici Romani Doc, questi due bei ragazzoni latini, Adriano e Bernardo. Allora, mi stavi raccontando, dicevi, di Venditti? Sì, che a Roma circola, diciamo, la voce che Venditti in realtà non sia di Roma, diciamo sia un romano acquisito, ah. Però è un grande amante della città, questo è sicuro. E tutti i romani associano il nome di Venditti alle vittorie della squadra, no? Della Roma e del Circo Massimo, insomma, i famosi concerti che ha dato negli anni Ottanta. Ah, quindi anche lui si è innamorato di questa capitale, l'ha fatta sua con le canzoni, ma tu hai introdotto un argomento che io vorrei affrontare con voi due. Le squadre, si sa che insomma la tifoseria è molto accanita, no? Nella capitale. Per esempio, se dico viva Roma, Bernardo mi dice... Beh, hai ragione. Senza e se dico viva Lazio... Beh, io ne sarei felice. Ecco, Adriano ne sarebbe felice, perché qui abbiamo un laziale e un romanista insieme nella stessa stanza e non si stanno picchiando. Come mai? Avete delle discussioni accese su queste cose oppure ormai vi siete accettati? Ci siamo accettati come persone, calcisticamente manteniamo le nostre distanze. Aspettano di andare. No, a Roma il calcio è più della religione, nel senso che soprattutto nelle settimane del derby si vive un'atmosfera totalmente diversa, insomma, si va al pizzicarolo, all'alimentare, al mercato e si parla solo di calcio. E quindi partono gli spottò, le battute e poi, insomma, la settimana dopo il derby, a seconda di chi ha vinto, chi ha pareggiato, chi ha perso, c'è da fare le penitenze, c'è da... Ah, ci sono delle penitenze che mi potete raccontare, sì. Cose carine, divertenti. Sì, non lo so, io ho visto di tutto a Roma, insomma, gente che andava in giro con la maglietta della Lazio e con il cartello al collo del tipo perso stavolta, devo pagare. Insomma, ci si sbizzarrisce, però ecco, è un qualcosa che tocca dentro, ecco, nel senso che il romano tiene al calcio e tiene soprattutto al derby, ecco. Certo, quindi in quei periodi voi insomma non vi parlate molto, vi parlate ma un po' vi odiate. C'è attenzione. Allora, ti faccio un esempio. Io ho avuto l'abbonamento per molti anni e di solito uno va alla partita un paio di ore prima, un'oretta prima. Al derby ci si va 5-6 ore prima, cioè appena aprono i cancelli si sta lì ad aspettare l'inizio della partita. E in realtà poi la parte più divertente di tutta la serata è lo spottò che ci sta prima che le squadre entrano in campo. Quindi con gli striscioni, con le prese in giro. Una volta, non so, avevamo messo tutti con il cookie, no? Con l'alluminio. Ma Deda, vorrei approfittare... Sì. Si può, magari potrebbero cantarci a turno uno sfottò. Esatto, non c'è un coro, qualcosa. Non sono appropriati per la radio. Mettiamo i beep, no? Ti posso raccontare uno striscione che era dei più belli. Allora ci sta, a un derby si era sparsa la voce in curva sud, che è la curva nord, cioè la curva della Lazio, avrebbe messo uno striscione con su scritto curva nord carica. E come conseguenza, appena abbiamo visto quello striscione, abbiamo fatto scendere un altro con su scritto curva sud briscola. E là siamo stati. Sono questi i giochi, quelli poi divertenti. Queste cose divertenti, sì, insomma, sì. Quindi allo stadio non c'è solo picchiarsi, violenza, ma ci sono anche queste cose, insomma, che fanno ridere, divertenti. Esatto. È il lato buono della città, diciamo. Il lato buono della città. Che è la maggior parte poi delle persone che stanno allo stadio. E dei tifosi, fortunatamente. Ma Ladies, ma cosa state aspettando? Questi ragazzi, oltre a essere belli e simpatici, sono anche corretti, sono ragazzi che insomma lavorano qua a Bruxelles, quindi direttamente da Roma a Bruxelles hanno portato un po' di solarità romana, il loro buon umore, magari anche la loro cucina, perché si sa che Roma è conosciuta anche per la cucina, la trippa, la coda alla vaccinara, che io non ho mai capito che cos'è sta coda alla vaccinara, scusate l'ignoranza, scusate a tutti i romani, e probabilmente l'ho anche mangiata e ho pensato quant'era buona. Spiegami. È un fatto storico. Allora, a Testaccio, prima hai citato Testaccio, hai detto che era il luogo, diciamo, di produzione, nel senso che c'era il mattatoio. e di conseguenza gli operai del mattatoio, non avendo i soldi per potersi permettere il ristorante durante le pause pranzo, portavano gli avanzi della macellazione nei ristoranti di fronte, quindi che sono le frattaglie, la coda alla vagina, la roba buona. Esatto, e dicevano ai ristoratori: niente, guarda, noi non vi paghiamo, però vi portiamo le materie prime, cucinateci. E da lì sono nati, insomma, la pagliata, la coda alla vacinara, la tripa, che sono tutti alla fine elementi di scarto della macellazione, però buonissimi. Che però poi, ecco, una volta appunto portavi la tripa e mangiavi gratis, adesso vai a testaccio, devi portarti l'assegno, la carta di credito. Si fanno pagare, Roma ormai è visitata da tutto il mondo, quindi può un po' aumentare i suoi prezzi, diciamo che vale la pena almeno a Roma. Vale la pena sicuramente. Ma senti, ma se io vado dentro le cosiddette fraschette, no? Che sono le osterie romane, e gli chiedo una cotoletta alla milanese, ma loro me la fanno? Assolutamente no. Allora, a questo punto ci sentiamo uno scherzo veramente esilarante, dove un milanese chiama una fraschetta romana e gli chiede, insomma, beh, sentite. Sì? Pronto? Mi sente meglio adesso? Sì, mi dica. Io devo scendere per questo importante meeting d'affari con questi americani. Sì. Dicevamo, io li volevo portare in un posto tipico lì a Roma. Sì. Però mi stava a cuore farli mangiare tipico milanese. Ho capito. Si può fare? Certo. Certo. Molto bene, molto bene. Ma quando però? Appunto, le dicevo che il progetto sarebbe un po' avanti, tipo aprile 2009. No, ho capito. Si può fare? Sì. Ma qui però è cucina romana, Solo cucina romana? Sì, sì, questo non c'è problema, fagioli, tutta questa roba qui noi la facciamo. Guarda che, cioè, io pago. Se voi mi fate un mangiarino tipico milanese, io pago. No, no, no, ho capito. Senta, può lasciare un numero di telefono? Il numero di telefono, mi dice? Non c'ho tempo, sono in autostrada, sto tornando a casa, abbia pazienza. Se può ascoltarmi 5 minuti, risolviamo la faccenda adesso. Quindi allora, dai. Volevo chiedere, come primo piatto, si può fare, non so, delle orecchiette? Orecchiette, punta d'asparagi, una cosina così. Sì, si può fare tutto. Molto bene. Se no, guardi, mi dia un consiglio, se no possiamo fare un Milano-Roma 01 e gli facciamo mangiare una matricianina? Ma facciamo 2-0 Milano-Genova, è uguale, Ma che me sta prendendo in giro, me sta prendendo per culo? No, no, abbia pazienza, voglio capire soltanto, io scendo con questi americani, mi preme... Certo, posso fare una domanda, scendo io con gli americani e vengo a Milano, no? Se famo Lazio-Roma 2-0, che sei un pezzo di cazzo che sta a cagare il cazzo. E abbiamo ascoltato questa esilarante telefonata e ringraziamo Marco Golinelli per aver prestato la voce in questo simpatico scherzo. E stavamo appunto parlando di queste fraschette, chissà cosa avrà pensato questa persona che ha risposto, questo che gli chiede il risotto con gli asparagi. Insomma, queste fraschette qua, dici un po', Adriano. Beh, le fraschette sono dei locali tipici dei castelli romani. I castelli romani, vi dico qualche nome: Ariccia, Frascati, Genzano, sono delle cittadine che si trovano nella periferia Roma Est, in una zona montuosa che si chiama Castelli Romani. Tipico della fraschetta è andare lì, mangiare prodotti tipici romani, ma soprattutto bere la romanella, che è un tipico vino dei castelli, nella doppia versione bianco e rosso, ve lo consiglio, è parecchio forte. E accompagnarlo magari con le pappardelle di cinghiale e al cinghiale, oppure con mozzarelle di bufala e coppiette di cavallo e cose del genere. Quindi è un'esperienza sicuramente, se vi trattenete a Roma più di una settimana e avete del tempo nel fine settimana, è un'esperienza da fare. Sono all'incirca mezz'ora da Roma. Quindi... Benissimo, allora avete sentito, ragazze singolo, ragazze, qualsiasi ragazza interessata a questo bellissimo ragazzo moro con gli occhi azzurri, vi porterà in giro per le fraschette romane, vi farà assaggiare piatti incredibili. Quindi chiamate a Radio Alma se volete conoscere questo nostro ospite, Adriano. E, E poi stavamo parlando appunto di questi posti tipo Genzano, Colli Romani, no? Io so che c'è la festa del vino, che dalla fontana esce proprio il vino. Cioè c'è un giorno che io mi posso attaccare alla fontana e bere il vino dalla mattina fino alla sera. Sì, è a Marino però. Ah, è a Marino? A Marino, sì, si trova sempre lì. Ma non è possibile, io non ci credo che...